Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Biochimici in ascolto, in cerca di lavoro o che vogliono cambiarlo, state in ascolto, perché fra un po' parliamo di plastica che non è plastica, di qualcosa che può interessarvi da vicino. Benvenuti tutti a Mebius e ascoltiamo insieme i titoli di questa puntata. Pallina non c'è più. Era questo il nome dato alla piccola giraffa del Bioparco di Roma da un concorso fatto fra le scuole della città. Una caduta le è stata fatale. Un lifting per opere d'arte. All'opificio delle pietre dure i segni del tempo si cancellano col laser. C'è una nuova plastica che non è plastica. Tre aziende al mondo la producono e una è italiana, alla disperata ricerca di biochimici. Sviluppare gli ovociti fuori dal corpo della donna. Perché la medicina è favorevole a questa ipotesi? L'ululone e il pelobate sono a rischio, ma anche il disco glosso non se la passa bene. Sono rospi italiani che stanno scomparendo a causa delle alterazioni ambientali. Dalle piante può arrivare elettricità e non si tratta di pochi watt. Una ricerca americana pensa a utilizzi domestici. Chiara. Buonasera Federico, una brutta serata. Iniziamo un po' tristemente questa trasmissione. Sì, è triste, però allo stesso tempo una storia tenera che ci piaceva raccontare. E dobbiamo assolutamente farlo. Presenti il nostro ospite. Sì, lo facciamo con il direttore scientifico del Bioparco di Roma, è qui con noi Fulvio Fraticelli, buonasera. Buonasera. Ecco, lei è nostro ospite per portarci una testimonianza così un po' tenera, più che triste, perché circa una settimana fa, purtroppo, al Bioparco di Roma è caduta ed è morta la giraffina Pallina. Esattamente. Esatto. Aveva all'incirca 3 anni? No, aveva 1 anno. Ah, era piccolissima. Sì, un anno. Ed esattamente quasi 1 anno è durato il concorso per trovarle il nome, hanno partecipato tutti i bambini di Roma. Esattamente. Senta, ci dica com'è avvenuto questo guaio. In una maniera banalissima, è scivolata, nel senso che un animale che ha una testa che si trova a diversi metri da terra, sbattendo in terra, può avere dei traumi molto, molto gravi. La cosa purtroppo ha avuto un esito nefasto, nonostante la presenza immediata del nostro staff veterinario, i nostri guardiani sono tutti prodigati per cercare di risolvere il problema, ma i danni che ho avuto al midollo spinale erano talmente gravi che non c'è stato niente da fare. Ecco, questo è un incidente che può avvenire anche in natura ovviamente e anche in cattività. Forse il vantaggio della cattività è che appunto c'era un'equipe medica pronta a salvarla qualora fosse stato possibile. Casi come questi avvengono sicuramente molto più in natura che in cattività. Le probabilità che un animale, una giraffa che vive in una savana africana, metta il piede in una buca del terreno, che può essere una buca di un orittero, un termitaio, oppure che scivoli sul fango di una pozza dove si va a beverare, anche banalmente spaventata dal volo di una tortora, sono sicuramente molto più alte rispetto a quello che succede in una struttura controllata come un giardino zoologico. Lo dimostra il fatto la mortalità nei primi anni di vita che hanno questi animali, che in natura è altissima. In alcune specie la mortalità nel primo anno di vita supera addirittura il 60-70%, mentre invece in una situazione controllata questa può essere notevolmente diminuita. È un elemento di selezione naturale la mortalità certo. di vita, che seleziona anche se è un caso fortuito, seleziona quegli animali che hanno un'attenzione meno sveglia, meno attenta nei confronti dell'ambiente. Ecco, ma senta, però noi vediamo dei rugbisti che fanno delle cose impressionanti su un campo da rugby. Questi animali, un animale come la giraffa, è allora un animale che ha una fragilità notevole? In effetti, quando si vede camminare si ha la sensazione che siano un po' impacciate. Un po' instabile. Però in certi documentari vediamo delle giraffe che corrono ad ansia di una velocità impressionante. Ma è un animale un po' fragile, che ha una struttura, insomma, poco adatta per esempio al capitombolo. Beh, sicuramente l'evoluzione gli ha dato dei grossi vantaggi per superare in altezza gli altri animali, riesce a mangiare cose che gli altri animali della savana non riescono a fare, ma questo di conseguenza gli ha portato anche delle fragilità nella sua vita. La fragilità è anche il fatto di avere la grande facilità di avere delle infiammazioni articolari, anche in natura si vedono spesso delle giraffe che hanno delle borsiti che gli coprono completamente le articolazioni, oppure a fratture, oppure un capitombolo da un'altezza come quella può provocare dei grossi danni alla colonna vertebrale, tenendo presente che la colonna vertebrale di una giraffa è uguale identica la nostra, anche il numero delle vertebre è lo stesso, sono soltanto molto più lunghe, essendo molto più lunghe c'è una leva che grava sulle articolazioni, molto più dannosa in caso di uno stress, di un colpo. Beh, le zampe però sono differenti, sembrano dare quella sensazione di più instabile, più fragile. Certamente, sono delle zampe talmente lunghe, è vero che le ossa delle zampe sono molto robuste e molto resistenti, ma su un osso che normalmente in un erbivoro della savana, tipo una zebra, uno gnu, è lungo alcuni decimetri, lì invece è lungo alcuni metri, le probabilità di rattura sicuramente aumentano. Tra l'altro Pallina era nata proprio lì nel vostro bioparco, e questo è un evento molto positivo per un parco come il vostro. Beh, indubbiamente era nata qui ed ha un significato particolare, perché i nostri animali sono i testimoni di quelli che vivono in Africa, proprio in questi giorni stanno arrivando delle notizie tragiche sulla situazione delle giraffe in Africa, in particolare in alcune zone. Le giraffe del Niger sono ridotte al lumicino, sono le ultime giraffe dell'Africa occidentale e c'è bisogno assolutamente dell'intervento dell'uomo in casi come questi. La riproduzione in cattività delle giraffe ha un significato duplice, quello di avere uno stock di animali nella speranza che si creino le condizioni ambientali, politiche, sociali per poter riportare nel paese d'origine, ma principalmente di fare sensibilizzazione, di fare educazione, che è sicuramente l'elemento principale migliore per fare conservazione. Senta brevemente, e adesso che si fa? Bisogna trovare una nuova storia d'amore, insomma, come fate? Noi abbiamo un gruppo di giraffe che ha già una sua vita sociale molto articolata, molto complessa, sono degli animali sociali che devono vivere in branco, isolati non possono solamente vivere. Un individuo in meno penso che verrà recuperato rapidamente. Ecco, per una giraffina che se n'è andata, qualche altro ospite nuovo per i bimbi che ci stanno ascoltando? Noi stiamo lavorando su delle specie che sono estremamente minacciate, in particolare stiamo lavorando sul leopardo dell'Iran, una specie che vive in zone di guerra, una forma sottospecifica molto particolare del leopardo che sta scomparendo grazie ai campi minati, probabilmente sono mine antiuomo di fabbricazione italiana che stanno facendo scomparire questa popolazione in zone di guerra. E poi stiamo lavorando anche su degli animali forse meno attraenti per il grande pubblico, ma estremamente importanti. Abbiamo cominciato un grande progetto di conservazione di alcune specie di anfibi italiani. Gli anfibi sono probabilmente la classe di vertebrati più minacciata al mondo, perché con la globalizzazione, con l'aumento dei viaggi, abbiamo fatto viaggiare anche un fungo che è mortale per questi animali. Ecco. Abbiamo cominciato a lavorare con una specie sarda che si chiama Euprotto, un tritone che soltanto l'intervento umano potrà salvare dall'estinzione. Ecco, lei direttore è veramente sul pezzo, perché io tornerò in studio tra poco proprio per parlare di anfibi. Va bene, allora la ringraziamo e buon lavoro, insomma la vedremo al parco. Certamente, grazie a voi. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Pronti? Siamo arrivati al nostro gioco, il quiz. Ecco la domanda: per quale ragione, quando si ha il raffreddore e il naso è chiuso, le consonanti nasali, in particolare la N, cambiano sonorità? Avete ben presente, no? Invece di dire straniero, diciamo stradiero, come se al posto della N ci fosse una D. Allora, come mai accade ciò? Prima possibilità. Può sembrare strano, ma alcuni suoni che emettiamo, e quindi anche le singole lettere, non provengono dalla bocca, ma da altre parti, e le consonanti nasali, appunto, si formano nel naso. Ci scriverete naso. Seconda possibile risposta. Quando pronunciamo la N, la lingua poggia sul palato, sopra, e quindi l'aria, in questo caso, passa dal naso. Se questo è ostruito, ecco che viene fuori un suono diverso. Ci scriverete palato. Terza e ultima possibilità. Forse non se ne accorge nessuno, ma il naso, afflitto da un forte raffreddore, agisce su tutta la movimentazione della zona e anche della bocca, che mentre parliamo non si muove come al solito. In particolare cambia proprio il movimento che le labbra fanno con le consonanti nasali. Ci scriverete bocca. Dove? Beh, l'SMS è il solito 349-238-6666. 349-238-6666. Il libro che si vince è le 5 equazioni che hanno cambiato il mondo di Michael Gillen, edizioni Thea. In collaborazione con IBS.it. Che immagine abbiamo tutti dei raggi laser? Io dico che non v'è dubbio, è quella dei raggi che escono dalle astronavi, delle guerre spaziali, oppure quelli usati impropriamente, perché non ci sta, in certe funamboliche rapine sempre cinematografiche nelle quali il raggio trapassa porte blindate spesse mezzo metro. Invece, il laser può essere più delicato di un pennello e adesso vi spiega tutto Maurizio Meles. L'Italia è depositaria di un immenso tesoro artistico e architettonico che richiede di essere costantemente mantenuto e restaurato. È cosa nota e noi di Mebius ci siamo occupati altre volte di restauro e di come la tecnologia stia entrando sempre più in profondità dentro questa professione. Per esempio, abbiamo raccontato di come si possono pulire i monumenti con dei batteri mangiasporco. Ebbene, una delle tecnologie che si è andata consolidando più di recente è quella del laser, che è stata sperimentata con successo a Firenze, all'Opificio delle Pietre Dure, dove si fa restauro, ma soprattutto si fa ricerca sulle tecniche di restauro del futuro. D'altronde anche il laser è italiano, infatti è stato sviluppato dal gruppo ELEN in collaborazione con l'Università di Firenze e il CNR. Diciamo che ha guidato un po' tutta questa ricerca il professor Leonardo Masotti, che è ordinario di elettronica all'Università di Firenze e presidente del consiglio scientifico del gruppo ELEN. Buonasera Masotti. Buonasera, come sta dottore? Bene. Senta, io le faccio subito una domanda, perché qui i nostri ascoltatori si staranno chiedendo: ma come il laser che serve a bucare, tagliare, l'abbiamo visto in Star Trek, lo vediamo nei documentari sull'industria pesante, qui lo spariamo su un oggetto d'arte, ma non è pericoloso? Sì, è la prima, dico sì, nel senso che l'impressione c'è pericoloso, ma non lo è pericoloso, perché l'abilità di gestire una sorgente di energia fa parte delle doti dell'uomo che studiando riesce ad avere addomesticato tante cose che in natura sembravano impossibili da essere domesticate. Allora, il laser viene utilizzato anche per curare la bellezza delle nostre signore, alcuni uomini anche ricorrono a questo, allora si può regolarlo elettronicamente in modo tale che abbia un gentilissimo contatto con gli oggetti che vengono investiti da questa luce. Pensi un po', per ridurre le rughe nel viso di una persona o per curare in profondità affezioni che riguardano l'ortopedia si usa laser. Con benefici naturalmente, altrimenti non si userebbe. La sua funzione insomma è quella lì di scaldare un punto ben preciso e interagire magari con certi materiali soltanto. Sì, è selettivo, ma scaldare è un po' limitativo per quanto sia l'effetto del laser, perché consideri che sia un effetto che è di tipo fotomeccanico. Allora, se noi andiamo e abbiamo fatto studi per vedere le varie modalità di erogazione di questa luce affinché potesse essere ablativa dello sporco ma non di quello che è il substrato sotto. L'esempio più eclatante è un marmo bianco, usando particolari lunghezze d'onda, un marmo bianco che è sporco per l'inquinamento atmosferico, se è investito da un raggio di intensità controllata e di dimensioni della zona focale controllata, che cosa provoca? Provoca la vaporizzazione della parte sporca, ma appena il raggio arriva sul bianco del marmo riportato alla sua pulitura originaria si arresta, viene riflesso. C'è un autocontrollo. Ecco, senta, lei ha fatto molti esempi in campo medico, non è un caso, diciamo che è la storia di questo laser. Sì, è una bellissima esperienza di quella che viene chiamata fertilizzazione incrociata da un lato e dall'altro migrazione tecnologica, cioè il cogliere quelli che sono i risultati in un campo e poterli trasferire ad altri dove ci sono, in questo caso specifico, uguali necessità di essere molto tranquilli nell'avvicinarsi con queste sorgenti luminose agli oggetti. La pelle, il viso della signora, e lo possiamo diciamo accostare a quello che sono le superfici di una statua o di un bassorilievo o di un quadro pittorico. Bene Masotti, io la ringrazio e la saluto, anche perché vorrei sentire cosa ne pensa dei laser applicati al restauro Paolo Belluzzo. Buonasera Paolo. Buonasera a voi. Paolo Belluzzo è un restauratore che si è formato e collabora con l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Ci conosciamo da un bel po', insomma, quindi non abbiamo speranze di riuscire a recitare decentemente la pantomima del lei, insomma. Perciò diamoci del tu. E quindi ti chiedo subito di correggermi se sbaglio a dire che tu sei stato il primo a sperimentare il laser al neodimio sull'argento. È stata sì, una delle prime sperimentazioni su questo tipo di materia. Prima c'erano state solamente delle esperienze sporadiche, soprattutto sul materiale archeologico. La mia è stata la prima ricerca sistematica su questo argomento. Ok, quindi che cosa è venuto fuori? Intanto ti chiedo, come dire, con che funzione utilizzate il laser per fare il restauro e che cos'ha in più o in meno il laser rispetto alle tecniche tradizionali? Il laser viene utilizzato ormai quasi abitualmente per la pulitura delle superfici, ovviamente su quasi tutti i materiali esistenti, sul metallo, sul lapideo, eccetera. E appunto viene utilizzato per la pulitura, quindi per la rimozione di quello che è al di sopra della superficie originale, quindi croste, sporco, anche ridipinture di superfici. E in più rispetto alle tecniche tradizionali ha sicuramente il vantaggio di essere estremamente selettivo, perché noi possiamo con lo strumento preciso e i parametri più adatti riuscire a rimuovere esattamente quello che vogliamo rimuovere senza intervenire o danneggiare la superficie del manufatto. Senti, l'ingresso delle tecnologie nell'ambito del restauro è in atto da un bel po' di tempo. So che insomma all'inizio non sono state accolte molto bene. Per esempio, una polemica di cui ho sentito parlare è il fatto che a volte certi restauri facessero apparire troppo nuovi gli oggetti restaurati. Ecco, com'è adesso l'atteggiamento dei restauratori invece nei confronti delle nuove tecnologie? Sì, questo è sicuramente cambiato. Ormai il restauratore è una figura professionale molto ben delineata, con caratteri di scientificità molto, molto evidenti. Pertanto l'apporto di novità, le nuove tecniche, nuove metodologie è sempre ben accetto, anzi anche siamo noi i primi a suggerire magari a un team di fisici, biologi o chimici un qualche nuovo sistema da approfondire, da testare. Quindi in realtà le nuove tecnologie sono assolutamente positive e fondamentali. Va bene, allora grazie Paolo e insomma buon lavoro. Grazie a voi. Ci sarebbe un gene delle 4 ore che non abbiamo tutti. Le 4 ore si riferiscono al sonno. Hanno fatto esperimenti sui topi e funzionano. Stanno bene e sono arzilli. Probabilmente siete un po' perplessi dopo queste mie parole. E infatti Chiara Albicocco adesso vi spiega tutto. Laboratori scientifici dell'Università di Stanford in California, ad una certa ora tutte le cavie si abbandonano al sonno e vanno a dormire. Tutti? No, non proprio tutti. Un gruppo di tenaci roditori non cede alle lusinghe della stanchezza e persiste. Corre, corre, corre instancabilmente sulla sua ruota. Topi stacanovisti, verrebbe da dire, insonni si potrebbe aggiungere, ma l'attributo più corretto è però mutanti. Sì, sono una colonia di topi mutanti, nel cui DNA i ricercatori californiani hanno impiantato un gene chiamato DEC2, che presenta una particolare variazione. Questa mutazione è infatti responsabile dell'aumento del ritmo di attività dei topi studiati e della riduzione del loro periodo di sonno. La storia della scoperta di questo gene è in realtà curiosa. Una signora di 68 anni si presentò anni or sono al centro sonno e veglia di un'università americana, raccontando di come riuscisse a vivere una vita eccezionalmente attiva pur dormendo una manciata di ore per notte. Sia la signora che la figlia, infatti, coricandosi sempre alle 22 e svegliandosi alle 4 del mattino, riuscivano ad affrontare giornate particolarmente intense, piene di impegni di lavoro, viaggi, lezioni di danza. Ecco, i ricercatori dell'Università di San Francisco, interessati alle insolite abitudini delle due donne, cominciarono a studiarne il genoma e 9 anni dopo sono riusciti ad isolare il cosiddetto gene DEC2, la cui mutazione non è riscontrata in persone dal sonno normale. quelle cioè che sono abituate a dormire 8 ore per notte per sostenere a pieno ritmo una giornata di lavoro e poi, se preferite, aggiungendo una lezione di tango o 2 ore di pilates, come volete. Solo a questo punto, e qui ritorniamo allo studio da cui siamo partiti, gli scienziati della Stanford University hanno impiantato il gene DEC2 nei roditori e tuttora ne stanno studiando gli effetti. Per il momento è stato studiato che i topi mutanti, oltre a dormire di meno, riescono a correre su una ruota ben 1 ora e mezzo in più di tutti gli altri. Uno degli obiettivi principali dei ricercatori è infatti capire quanto la genetica influisca sull'indole e sul temperamento delle persone. D'ora in poi potremmo avere una scusa in più per crogiolarci nel letto e ci basterà pensare che i geni stanno dalla nostra parte. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Non so bene come iniziare a parlarvi di quello che vi devo appunto dire, ma potrebbe essere introdotto così: dobbiamo parlare di una plastica che non è plastica ma assomiglia assolutamente alla plastica che invece abbiamo intorno. Per risolvere questo apparente paradosso ho ospite con me questa sera Marco Astorri dell'azienda BioOn. Buonasera Astorri. Buonasera. È un paradosso, però mi pare che rappresenti bene quella che è la vostra attività. Noi ci eravamo già sentiti radiofonicamente un po' di tempo fa, adesso ci sono delle novità interessanti. Senta, allora, voi producete un certo tipo di plastica, ha una sigla, no? Sì, PHA. PHA. Però assomiglia assolutamente alla plastica che conosciamo, per esempio a quella delle bottiglie dell'acqua? Esatto, assomiglia addirittura alla migliora, nel senso che è come PET, PVC, polipropilene e polistirolo. Dal punto di vista proprio visivo è assolutamente uguale? È identica, addirittura migliorativa in alcuni casi. La provenienza però di questa plastica è completamente diversa. È completamente naturale, infatti proviene da una riserva di energia generata da batteri che si cibano di un determinato tipo di substrato, di scarto, diciamo di scarto agricolo. Cioè voi prendete dei batteri, li fate lavorare su qualunque tipo di scarto agricolo? In maniera molto semplice, in questo momento noi ci siamo concentrati sulle scarti della barbabietola e della canna da zucchero. I batteri, una selezione di batteri, si cibano di questi scarti, prevalentemente melasso, e al loro interno questi batteri formano una riserva di energia. Questa riserva di energia, per poter sopravvivere, è PHA, polidrossil canoato. Noi poi, con un processo ovviamente che fa parte del nostro know-how, andiamo a ricavare, a togliere questa riserva di energia al loro interno e di fatto ricaviamo il biopolimero. Quindi niente a che vedere con tutti gli impianti di tipo chimico e le provenienze di tipo chimico della plastica. Assolutamente no. Ci siamo imposti fin dall'inizio di seguire dei modelli di business assolutamente sostenibili, quindi essere estremamente attenti al chilometro zero, trasformare gli scarti lì dove erano e poter utilizzare energia pulita. Ecco, ma in prospettiva qualunque scarto di tipo agricolo, mi pare di capire, potrebbe essere utilizzato per questa produzione? Sì, possibilmente ci saranno sicuramente delle ricerche anche su altri scarti agricoli. Per ora lavorate su questo. Esatto, sugli scarti della produzione saccarifera. Allora, la soluzione sta anche nel fatto che se io prendo questa bottiglia fatta con la vostra plastica che non è plastica e la butto in un fiume, non dovrei farlo, ma supponiamo che la buttassi oppure in mare, se ne va, scompare. Sì, qui la natura ci dà una grossa mano, perché come le dicevo prima, questo tipo di biopolimero è resistente quanto i polimeri conosciuti oggi ricavati dal petrolio, ma come prerogativa proprio il fatto che si biodegrada più velocemente della cellulosa, quindi buttandola ad esempio in acqua di fiume ho una perdita del peso molecolare, quindi una biodegradazione naturale del 13% al giorno, quindi molto più veloce della cellulosa. Vuol dire che si trasforma di fatto nell'elemento in cui viene ospitata, cioè in acqua. Abbiamo parlato di bottiglie, ma ci posso fare anche tutto il famoso packaging degli alimenti che ci produce un'infinità di plastica? Anche questo? packaging degli alimenti, pellicole, parti di automobili, quindi tutto il settore automotive, tutto il settore dell'elettronica, quindi telefonia, telefonini, computer, tutto il packaging farmaceutico e le fibre. Praticamente la plastica che è conosciuta oggi, che copre il 70% della produzione plastica degli oggetti del mondo, quindi come vi dicevo il PET, polipropilene, PVC, polistirolo, possono essere sostituiti degnamente da questo tipo di biopolimero completamente naturale. Diciamo punto a punto. Esatto. E per esempio quella disastrosa isola immensa che noi abbiamo nel Nord Atlantico, che è praticamente una concentrazione di plastica impressionante prodotta dalle correnti che recuperano tutta la plastica nei mari del pianeta e la portano lì, per esempio, che è un grossissimo problema, praticamente non ci sarebbe più. Senta, non ci sarebbe, esatto. Veniamo al problema però. Io ho aperto la trasmissione dicendo biochimici in ascolto, restate in ascolto. Voi avete un grosso problema, cioè questa vostra attività sta crescendo e non fate fatica a trovare competenze che invece entrino dentro la produzione. Avete bisogno di biochimici con una particolare preparazione? Abbiamo bisogno di biochimici, di laureati in biochimica o anche comunque tecnici, non per forza laureati, ma che siano sicuramente esperti, che abbiano avuto esperienze nella fermentazione e nei processi, diciamo, di recovery, di recupero praticamente di ciò che veniva fermentato. Non è semplice oggi trovare queste figure, ma oggi e soprattutto nei prossimi anni in Italia, sicuramente grazie a noi e nel mondo, nello sviluppo di questi nuovi biomateriali, ci sarà grande necessità di queste figure, quindi noi cerchiamo continuamente questo tipo di profilo. Lì vorreste esperti in processi di fermentazione, magari se non hanno questo tipo di esperienza potete fargliela, però voi insistete sul fatto che ci sarebbe bisogno di questo know-how. Tanto bisogno, sì, esatto. Senta, auguri a lei e alla sua azienda, auguri. Grazie. Anche, spero che dei biochimici in ascolto vi chiamino. Oh, dove esattamente? Beh, il nostro indirizzo mail per questo tipo di richiesta è sicuramente info@bio-on.it. info@bio-on.it. Esatto. Esatto. Va bene, auguri, grazie, a presto. Grazie a lei. Sì, l'interrogativo da cui parte il prossimo servizio è di quelli di un certo peso. Vi può essere un passaggio iniziale nella nascita di un essere umano che può avvenire al di fuori del corpo della madre? Barbara Galavotti vi parla di questo tema e con il suo ospite vi spiegherà perché questa prospettiva ha una sua precisa ragione. Torniamo a parlare di ricerca sull'infertilità e questa volta tocchiamo un tema davvero di frontiera. È possibile portare a maturazione fuori dal corpo femminile gli ovociti, cioè quelle cellule che fondendosi con uno spermatozoo maschile possono dare origine a un embrione? Può sembrare un'ipotesi estrema, un passo inquietante verso la produzione di esseri umani dal concepimento ipertecnologizzato. In realtà è solo una delle tante sfide che la ricerca biomedica affronta per cercare una soluzione a problemi che sono molto concreti. Se ne è discusso durante il convegno internazionale dal titolo Procreazione medicalmente assistita, l'appello. Si è tenuto a Treviso nella seconda metà di settembre. Andrea Borini, organizzatore del convegno, è qui con noi. Buonasera. Buonasera. Parliamo allora di maturazione degli ovociti femminili fuori dal corpo della donna e facciamo un piccolo ripasso di fisiologia femminile, se ce lo permette. Allora, le ovaie contengono dalla nascita diverse centinaia di cellule uovo, cioè ovociti. Allora, lei mi corregga se sbaglio, a partire dalla pubertà e fino alla menopausa questi ovociti maturano al ritmo di circa uno al mese e diventano le cellule adatte ad essere fecondate e a generare un bambino. Se però la donna si sottopone a una particolare stimolazione, per esempio per un trattamento di fecondazione assistita, allora gli ovociti che arrivano alla maturazione in un mese possono essere numerosi, anche più di 10. È così, è corretto? Sì, è corretto. Quindi la possibilità evidentemente è quella e la necessità è quella di cercare di non utilizzare stimolazioni, ma di poter far maturare ovociti, quindi far venire la maturazione senza la necessità della stimolazione ormonale. Di questo si sta studiando, ci sono due linee di ricerca principali. La prima è una linea di ricerca che prevede appunto la maturazione dei follicoli come sono nell'ovaio, quindi nel loro stato, diciamo, primordiale, e questa è la fase di ricerca più difficile, perché si riesce a far maturare l'ovocita, ma non completamente la sua capacità poi di diventare embrione e quindi bambino. Quindi su questi ci sono ancora molti studi. L'altra invece ricerca riguarda la maturazione in vitro sempre degli ovociti, che però hanno già iniziato un certo sviluppo a livello del follicolo nell'ovaio durante il ciclo mestruale. Questa in questo momento è la metodica che clinicamente può essere messa in azione, quindi i pazienti possono essere trattati. Se ne è parlato appunto nel convegno e sono stati presentati i risultati di questa metodica. Ecco, ma quindi si tratta di non sottoporre le pazienti che vogliono fare fecondazione assistita a cicli di stimolazione. Perché questo? Beh, intanto sono donne che non amano la stimolazione ormonale, non mi chieda perché, però evidentemente... Beh, lo possiamo capire facilmente. Sì, no, ma l'utilizzo di farmaci che portano ad aumentare gli ormoni non è una cosa che piace probabilmente a nessuna delle pazienti, alcune pazienti proprio non lo tollerano e non lo vogliono subire. Altre perché ci sono in realtà pazienti che sono a rischio di avere poi anche con bassi dosaggi di ormoni grandi produzioni di follicoli, quindi sono a rischio di quella che è l'unica, diciamo così, non lo voglio chiamare effetto collaterale, ma addirittura complicazione della fecondazione assistita, che è la sindrome da iperstimolazione ovarica. E quindi in queste donne che sono particolarmente a rischio si può ragionare sul fatto di cercare di portare avanti questa tecnica. Beh, ma la vera frontiera, quella che è veramente più lontana, è quella che riguarda invece la maturazione in vitro di ovociti che non hanno ancora minimamente iniziato il loro ciclo di maturazione. Quello è il desiderio di tutti, quello è, direi che probabilmente è a livello di ricerca uno dei campi dove si fa più investimento, proprio perché non sarebbe solamente un problema di pazienti che devono fare, hanno necessità di fare un trattamento appunto di progressione medicalmente assistita, ma in realtà questo riguarderebbe tutte le donne che hanno problematiche di tumori, quindi devono perdere l'ovaio, tutte le donne che hanno particolari problematiche all'ovaio, come malattie come l'endometriosi, quindi sarebbero tante le donne che potrebbero usufruire di questa metodica. Si congelerebbero pezzetti di ovaio, come si fa d'altronde anche oggi, solo che oggi è necessario poi rimpiantarli all'interno della pancia della donna per cercare di avere l'ovulazione, chiamiamola così, spontanea. Nell'altro caso invece basterebbe semplicemente appunto recuperare i follicoli primordiali a livello dell'ovaio e metterli in cultura per farli maturare, quindi far maturare gli ovociti. Quindi questo sarebbe, diciamo, l'ideale, non dovrei sottoporre un'ulteriore chirurgia alla paziente. Il traguardo, i risultati sono ancora lontani da poter essere applicati nella clinica. Ma una volta che voi avete ottenuto questi ovociti maturi, c'è un modo per conservarli? Ci sarebbe? Sì, beh certo, esistono metodiche di conservazione degli ovociti che sono sia la vitrificazione che il congelamento lento. Entrambi sono sistemi per cercare di conservare integre le cellule, quindi poterle utilizzare successivamente. E oggi queste metodiche di congelamento migliorano, diciamo, di sei mesi in sei mesi, se non addirittura di mese in mese, proprio perché oggi in tutto il mondo si sta studiando a questo riguardo. Grazie Andrea Borini, buonasera. Niente, buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo la soluzione del quiz, ve la ricordate? Raffreddore, naso chiuso, problemi con le consonanti nasali come la N, invece che dire straniero diciamo stradiero. Bene, la risposta giusta era la seconda, quella alla quale bisognava rispondere dicendo palato, e infatti è così. Fate caso a dove si colloca la lingua quando pronunciate la N. La lingua va su a toccare il palato superiore, questa posizione blocca l'aria che passa dalla bocca e quindi, guardate che sono tutti movimenti estremamente rapidi dei quali non è affatto facile accorgersi, e quindi la nostra attività declamatoria, diciamola così, va a prendersi l'aria dal naso, perché per emettere suoni vi ricordo che l'aria è indispensabile. Bene, se l'aria passa dal naso raffreddato, il suono della consonante cambia. Questa era la risposta giusta. Avendo un bambino, lo chiamereste ululone? Non lo so, sembra il nome di un re barbaro dell'anno 800, invece è il nome di un rospo. Sì, anche questo particolare non depone a favore del nome per un bambino. Solo che l'ululone e anche altri rospi stanno scomparendo, come vi racconta Chiara Albicocco. Sono 36 le specie di anfibi presenti in Italia. Non molte se pensiamo che i rettili sono una sessantina, i mammiferi oltre un centinaio e gli uccelli addirittura 500. La scomparsa progressiva di rane, rospi, tritoni e salamandre è un problema che affligge tutto il mondo, ma ora l'allarme rosso è scattato anche nel nostro paese. Le cause sono le più diverse. Si punta il dito contro l'aumento delle temperature, i cambiamenti climatici, ma anche l'influenza dell'attività venatoria non è trascurabile. Due biologi italiani, Manuela Damen e Pierluigi Borghi, si sono presi la briga, diciamo così, di analizzare oltre 12.000 segnalazioni di avvistamenti di anfibi catalogate in 30 anni dai ricercatori e dagli erpetologi di tutta Italia. Bene, che cosa hanno scoperto? Lo chiediamo subito alla parte femminile dello studio, Manuela Damen, che questa sera è nostra ospite. Buonasera. Buonasera. Ecco, lei è biologa e dottoranda presso l'Università Roma 3 e dunque adesso ci deve spiegare che cosa avete analizzato in questo database davvero esteso. Dove avete trovato tutti questi dati? Allora, questi dati sono in realtà disponibili al pubblico, sono scaricabili dal sito del Ministero dell'Ambiente italiano. In particolare è scaricabile un software che si chiama CKMAP, in cui è raccolta tutta la conoscenza faunistica del paese italiano. E in questo database sono contenute quindi anche i dati di presenza di tutte le specie di anfibi presenti appunto sul territorio, e analizzando questi dati abbiamo seguito un'analisi dei pattern geografici del declino e poi li abbiamo messi in relazione con sempre i pattern geografici di variazione climatica e ambientale. Ecco, questa è un'informazione abbastanza interessante. Forse non tutti sanno che esiste questo software, questo programma che contiene questo database veramente esteso sulla fauna che compone le specie italiane ed è utilizzabile da tutti sul sito del Ministero. Sì, è scaricabile dal sito del Ministero, sì, esattamente. Ci ripete il nome? CKMAP. C di Como, K, MAP. Ok, è facilmente reperibile sui motori di ricerca. Ecco, e dall'elaborazione di questi numerosissimi dati, queste numerosissime segnalazioni, che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che innanzitutto è stato osservato un declino per numerose specie. Noi delle 36 specie abbiamo analizzato in particolare 19 per le quali i dati erano appropriati per le analisi che volevamo effettuare. Sì. E di queste 19, 3 specie in particolare hanno mostrato un declino, quindi una riduzione dell'areale di presenza di oltre il 30%. Quindi il territorio di questi anfibi è stato diminuito di un terzo? Sì, praticamente sì. Quali rispetto sono? Agli anni 60. Il pelobate fosco, l'ululone appenninico, che è una specie endemica, e il discoglosso pictus, che sarebbe una specie di rospo che in Italia è presente in Sicilia. Ecco, scusi, ma perché hanno sempre questi nomi così buffi, i rospi? sono nomi latini, derivano dal latino. È frutto anche un po' della fantasia di chi gliel'ha dati. Beh, certo, sì. Diciamo che in alcuni casi sono in relazione a alcune caratteristiche fisiche, in altri casi in relazione alla persona che appunto ha deciso il nome. Però sì, questo. Va bene. Quindi queste 3 specie sono quelle che hanno subito la maggior diminuzione di territorio, poi ce ne sono altre che comunque non stanno benissimo. No, hanno comunque subito una buona diminuzione, anche altre, una salamandra, o il tritone crestato italiano, Triturus carnifex, queste 2 specie, una riduzione circa del 20%. Quelle che hanno subito una riduzione minore, che comunque si tratta sempre intorno al 10%, sono quelle più comuni, le rane verdi e la rana italica, che è un'altra specie endemica, e anche il tritone italiano. Queste specie sono quelle che hanno subito una riduzione minore, però comunque sempre intorno al 10%. Il vostro è stato un tipo di analisi soprattutto quantitativo, ecco, però si possono fare delle ipotesi su quali sono le cause di questo declino, di questo lento declino? Sì, assolutamente. Il lavoro è in realtà, a parte questa iniziale analisi del declino, si incentra soprattutto sul cercare le cause di questo declino. Sono stati analizzati sia fattori climatici, quindi la variazione dei parametri climatici tra gli inizi degli anni 60 e la fine di questo secolo, e anche altri parametri che derivano praticamente dall'utilizzo del territorio da parte dell'uomo e quindi la distruzione dell'habitat, sia per cause per l'agricoltura sia per l'urbanizzazione. Quindi la costruzione di infrastrutture umane. Sì, la costruzione può di infrastrutture, aver... esatto. Sì, perché praticamente l'uomo, bonificando di diverse zone, sia per appunto l'agricoltura, ma anche per costruire strade o anche abitazioni, può praticamente eliminare, esatto, sottrarre l'habitat alle specie. E questa qui è la causa principale in realtà in tutto il mondo, quella della distruzione degli habitat per il declino delle specie di anfibi. Però nel nostro studio abbiamo evidenziato che ha una percentuale paritaria rispetto a questa causa di distruzione dell'habitat, anche fattori climatici hanno influenzato il declino delle specie. Gli anfibi sono particolarmente legati all'ambiente acquatico, perché nella maggior parte dei casi le uova e le larve si sviluppano in acqua. Certo. Quindi soprattutto la diminuzione delle precipitazioni è un fattore che per gli anfibi è molto importante, quindi non solo l'aumento della temperatura, che è sicuramente da non sottovalutare, ma anche la diminuzione delle precipitazioni per gli anfibi è essenziale. Il danno per un'eventuale scomparsa progressiva di questi anfibi è enorme anche dal punto di vista della biodiversità, e quindi a questo punto possiamo intravedere delle misure, delle precauzioni che potrebbero essere prese per salvaguardare, diciamo, queste specie? Allora, diciamo che il problema fondamentale è riuscire a capire come gli anfibi nel futuro risponderanno ai cambiamenti climatici. Ci sono diversi studi che sono in atto anche per riuscire, diciamo, a valutare sulla base delle predizioni climatiche dei climatologi quale può essere il futuro delle popolazioni e specialmente quale può essere il loro eventuale spostamento rispetto alla condizione di idoneità attuale, perché le specie sono presenti in una determinata area geografica anche in funzione delle condizioni climatiche che sono lì che sono presenti. Quindi se le condizioni climatiche cambiano, le specie potrebbero spostarsi per seguire le condizioni idonee. In questo caso potrebbero essere, nel caso della frammentazione che esiste nel nostro paese, potrebbero essere ostacolate appunto dalla presenza di infrastrutture. E quindi una cosa molto importante sarebbe creare dei cosiddetti corridoi biologici, uh-huh, che permettano alle specie di spostarsi dal luogo che era idoneo nel passato a quello che potrà essere idoneo climaticamente nel futuro. Sì. Va bene, dottoressa Damen, io la ringrazio e le auguro una buona serata. Arrivederci. Ci sono solo pochi secondi finali per dire buonasera a tutti e a tutte. Con Möbius ci sentiamo la prossima settimana.